basta ragazzi, cominciamo da capo. E metteteci un po' di vita. Troppo forte non esiste nel mio vocabolario. Come osi? Non ho capito. Come osi tu pensare di spacciarti per un musicista? Ma un sacco di band usano loop di batteria. Un sacco di ascensori mettono i pezzi di Céline Dion. Non per questo è giusto. Prendi questa scatola infernale. Metti un loop di fuga.